你有没个实力还要去来当歌星，以为会捞几个眼子就在哪里做。 اسمعوني جيبوا شباب وما قلت البنات نطلع الجبل الهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics, la música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopoliticale. Eccoci Megaphonics di oggi, oggi 8 maggio, una trasmissione abbastanza eteroclita, si dice così, sì, con cose che non hanno molte da fare l'una con l'altra, un po' questa posizione che ci permette questa Megaphonics di essere un po' sopra la terra, di guardare qui da 1.000-2.000 chilometri lassù, di guardare che succede, di sentire un po' il rumore che viene da giù, differenti rumori. E intanto a proposito di rumore, e perché capirete subito, vi mando questa piccola cosa, non tutto, poi vi spiego. Ah, non parte. E prima di lasciare la parola e la voce a Kenny Arcana, infatti non si è ben sentito, c'era la voce di questo fantastico Sarkozy che, ricordiamolo, in 2005 diceva che voleva pulire al carcere questi diciamo queste cose idrauliche che mandano l'acqua a grande velocità, a grande pressione. Dunque voleva pulire le periferie al carcere. Troveremo i fettivi, troveremo la polizia, ma comunque tutto questo sarà pulito. E questa declarazione pronunciata da Sarkozy in 2005 ovviamente ha fatto scandalo, ma anche dopo lo scandalo, anche quando si fa una discussione con i giovani della periferia, in cui loro gli spiegano: ma guarda presidente, cioè, ma noi siamo umani, non è che si pulisce gli umani, non si dice, e lui comunque rimane sulla sua posizione. Siamo contenti perché va via, siamo contenti, l'abbiamo buttato fuori, non è solo il personaggio ultraliberalista comunitarista che ha passato molto del suo quinquennato a mettere la gente gli uni contro gli altri, a appoverire con una politica antisociale, con una politica antiservizi pubblici, ma anche un esempio di una grande violenza di rapporti. Ricordiamo che una volta, mentre un spettatore, diciamo, un tipo nel Salone dell'agricoltura, gli dice: no, ma scusa, ma non mi toccare, perché comunque lui faceva, poteva fare di tutto con i suoi soggetti. Gli risponde: vattene nel tuo paese, vattene al paese, stronzi. Si ricorda anche che una volta ha chiamato uno che lo fischiava, che non era d'accordo, dicendo: vieni qua, vieni qua, vieni qua, io ti faccio capire un po'. E poi non era solo lui, cioè, perché siamo anche contenti che partono dei personaggi che, ok, qui in Italia li avete anche voi, Maroni, eccetera, partono Brice Hortefeux, che ha potuto dire così pubblicamente, parlando a un militante di origine arabe, un militante poi del suo proprio partito, comunque uno ci va bene, ci serve anche, il problema è quando ci sono di più. E anche su questo è giudicato da Sarkozy come una dichiarazione sensata. Su queste elezioni su queste elezioni possiamo dire che alcune piccole cose, lo score di Nicolas Sarkozy in Israele, dove arriva con 93 quasi, per cento dei suffragi. Invece nei territori palestinesi sono 82% per François Hollande. Diciamo anche, per continuare, sì, perché avevo questo anche, valeva la pena di essere ricordato, che il suo ministro dell'interno, tipo 2 mesi fa, ha potuto dichiarare senza problema e anche appoggiato dei suoi partenari e poi dei suoi colleghi del governo e del presidente. Tutte le civilizzazioni non sono uguali. Dei discorsi fondamentalisti di un'altra epoca, che comunque siamo contenti senz'altro di vedere finire, almeno per qualche mese o qualche anno, alla testa dello Stato francese. Kenny Arcana, vi ricordo, che aveva scritto questa canzone Nettoyage Karcher, proponendo di andare all'Eliseo per pulire al Karcher le dossier del signore Sarkozy, e adesso è fatto. La France change, on s'est dit avec mes compères que pour nettoyer au carcère on était volontaires, tous ces magouilleurs déguisés. Ok pour nettoyer la racaille, nous partons donc carcériser l'Elysée. Ces hommes d'affaires en forme de politiciens libéralisant le pays en dépit des vœux de la populace. Baillons dans la démocratie pour faire passer leurs lois, leurs décrets, même quand le peuple a dit assez. Gouvernement honteux, que rien n'amène à la démission. Le plus ridicule de toute l'histoire de la nation, article 49.3. Expression, couvre-feu, dépassé, ta 5ème république a pris un coup de vieux. Le bol s'élève, gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne. Partout ça se mobilise, anti-libéral, les prisons se remplissent, la démocratie n'est pas libérale. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragailles. Nettoyage au Karcher, gouvernement honteux, honteux, honteux, est-ce que rien amène à la démission. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragailles. Nettoyage au Karcher, gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne. France schizophrène, nos valeurs stigmatise nos quartiers pour que les autres aient peur. Des politiques qui jouent les acteurs n'assument pas le passé colonial, et quand les banlieues pètent accusent les rappeurs. Mauvaise foi exemplaire ou mémoire sélective au doux. Ce France de mon enfance joue l'amnésie. Que fait la belle quand elle part d'immigration? Ce n'est pas ton peuple ou collabo qui s'est battu contre l'occupation. Au de ton podium, toi plus fut si fier de tes soi-disant droits de l'homme et de ton siècle des lumières. Ta philosophie humaniste s'est arrêtée à la théorie quand tes armées sont parties coloniser l'Afrique. La liberté d'expression comme tout à deux vitesses, islamophobie à tout va. Ne critique pas Israël, c'est la politique schizophrène de la France. Fracture sociale maintenue et par l'égalité des chances. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragailles. Nettoyage au Karcher, n'est pas ton peuple pour la peau qui s'est battu. à la transversale. Sortez les dossiers noirs, France-Afrique demande à Berchap. La France a oublié pour les quelques-uns qui vivent bien. Certains sont morts pour le droit des travailleurs, appelle à Villepin. Contre la première embauche, c'est exécute ou dégage. Régression sociale à tous les étages, bientôt le point de non-retour. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois comme un facho. Premier tour, Super Soro est arrivé, un Sarkozy totalitaire. N'oubliez pas que c'est par les hommes qu'est arrivé Hitler. Un ministre pro-Bush, l'OMC à son élève. Guillaume Sarkozy, vice-président du MEDEF. Pendant que les privatisations sèment la colère, nos politiques s'en réjouissent, en sont devenus actionnaires. Snob, les protestations, puis les criminalisent. Envoyez même le GIGN pour stopper des grévistes. Les voyages au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Élysée que se cacher plus grand des ragas. Les voyages au Karcher, c'est à l'Élysée que se cacher plus grand des ragas. Nettoyage au Karcher. Au royaume des aveugles, les bornes sont rois comme un facho. Nettoyage au Karcher. Sortez les dossiers du placard. C'est à l'Élysée que se cacher plus grand des ragas. Nettoyage au Karcher. Sortez les dossiers noirs. France-Afrique demande à Berchap. Nettoyage au Karcher. Sortez les dossiers du placard. C'est à l'Élysée que se cacher plus grand des ragas. Nettoyage au Karcher. E perché si parla molto del Mali in questo momento e senza fare un salto, diciamo, di genere musicale troppo grande? Vi propongo adesso di sentire Ina Moggia. I met this pretty boy in Paris. He used to tell me that I'm jolly. I couldn't say a word, just Coco, Choco, Chanel, Coco, Chanel, chocolate in my heart, in my veins. I just couldn't take him out of my brain. Just a glance, I'm entranced. This French fella was cute as hell. On my mind, in my bed, I just couldn't stop staring at him. Just a kiss, French kiss. He came in my life. Pretty boy in Paris. E allora lei è Inamoja, nata a Bamako in Mali in 84, di una famiglia Peul da sette figli, e lei è la sesta. E Ina Bakum deve il suo nome di artista al soprannome che gli dava la sua madre, Moja, che significa Ina non va bene, non è bella, non è bene in Peul. E poi lei inizia a cantare, perché inizia ad andare alla corale e i suoi genitori l'incoraggiano a fare dei progressi, a ascoltare i dischi, e lei ci prova un po' a fare un po' di punk, un po' di trash, un po' di rap, anche della heavy metal, anche del blues e del disco, e come abbiamo visto adesso, alla fine si ferma sulla pop. Dunque, Inamoja, per iniziare questa piccola parte della trasmissione sul Mali, un Mali non tradizionale, diciamo un Mali moderna della città di Bamako. Perché andremo a parlare della Federazione Nazionale delle Donne Rurali, da partire di un'intervista che ho rubato su una stazione di radio, mi c'era il nome, ma per andare un po' piano verso l'interno del paese, vi mando una canzone di Mamani Keita, ci fa andare un po' più nel specifico del nostro soggetto di oggi. Neko obarola jamaye ko kelete he Lebana. Oteba, oteba, yeh ko kele tehebana. Oteba, oteba, yeh ko kele tehebana. Sina maube, sina yakele mina. Sina mauka, sina yakele nitu. Oteba, oteba, sina yakele tehebana. Hebana Fane maume fane akele mina Fane mauka fane akele nitu Oteba oteba fane akele te hebana Avevo perso il microfono. E lei è Mamani Keïta, dunque del Mali. Riprendo un po' il mio filo che ho perso intanto, perché sì, di cantante maliane ne conosciamo almeno Rokia Traoré, Oumou Sangaré, Fantou Touré, Kandia Kayute, che sono anche dei nomi tipici del paese. Volevo sentire, dunque, volevo farvi sentire questa intervista che proverò a tradurre, perché in questo momento si sente molto parlare del Mali, della ribellione del Maghreb, dei Touareg, che è tutta la zona del nord del Mali che è stata destabilizzata da anche gli eventi della Libia, le azioni della CMI, l'Al-Qaeda del Maghreb islamico, del colpo di Stato che è stato a Bamako per chiedere al governo l'intervenzione della CDE, la federazione diciamo dei paesi del Sahel per reagire a questa situazione in una zona poco raggiungibile, ci sono poche strade, anche una zona in cui c'è un po' di caos, sono anche delle strade di traffico sia di armi, di donne, di droga, dunque una zona, vabbè. E questa destabilizzazione del Mali, che comunque inizia a spendersi un po' nel paese, e mi è venuto un po' la domanda di pensare, mi è venuto il pensiero alle popolazioni civili, e dopo aver sentito questa intervista, cioè che da pochi giorni, anche da una settimana, non parla della situazione, parla proprio la presidente, che si chiama L'ho messo, vabbè, ve lo dico dopo. Nyagate Kuru Nagisuko, dunque presidente di questa Federazione Nazionale delle Donne Rurali, spiega che ci sono 72% delle donne che vivono nel settore rurale, agricoltura, élevage, mi ritorna dopo in italiano, maraîchage, dunque verdure, sì, verdure, pesca e artigianato. E donne per la maggior parte che sono analfabetica che comunque hanno, cioè, da anni subito le situazioni. E dunque queste, le donne si sono rigruppate in questa federazione che si chiama, che si chiamano FANAFER dal 2004, e spiega la presidenta, spiega un po' come funziona. Les femmes ont décidé à travailler ensemble parce que constituant le groupe vulnérable, le groupe marginalisé, le groupe méprisé, plus on s'unit, plus on est. E le donne hanno deciso di metterci insieme perché comunque, essendo un gruppo marginalizzato, vulnerabile, più siamo insieme e più siamo forti. Più di 20.000 femmes, parce que notre fédération compose des agriculteurs et en même temps la pêche et l'agroforesterie et l'élevage. E dunque noi siamo più di 20.000 donne in questa federazione perché comunque siamo sui settori di, della pesca, dell'agricoltura, dell'allenamento. Ci arrivo. Actuellement, il y a beaucoup de femmes qui font des maraîchages. Maintenant, il y a un moment aussi, le marché est trop saturé. Par exemple, chez moi, moi je produis beaucoup de bananes, je produis beaucoup d'oignons. E attualmente lei dice che comunque molte donne coltivano le verdure e che un po' il mercato in questo momento è un po' pieno, e per esempio lei racconta che coltiva le cipolle e che c'è un po' di difficoltà per venderle. E per anticipare sulla cosa che dice, racconterà come si sta adesso cercando a trasformare le cipolle, cioè forse secche, per vedere a trovare un commercio un po' più ampio e non solo nel viaggio. Dans les oignons là, on les transforme en oignons secs. On grille aussi, on vend ça aux commerçants qui sont sur le marché. Donc il y a des femmes aussi qui font que le lait, qui transforment le lait aussi en yaourt aussi et en fromage aussi. Toutes ces femmes-là, ils ont été. Donc, questo è la stessa cosa per il latte, trasformare il latte in yogurt. Ils transforment les poissons aussi, les poissons secs là. La stessa cosa per la pesca, per i pesci. Ils vendent ça dans un emballage, ils vendent ça aux gens qui sont besoin. Donc je peux dire que notre fédération, on fait beaucoup de choses. E dunque anche di trovare le modalità di non solo prendere le cose o di sfruttare anche ancora di più la terra, ma anche di trovare le modalità di vendere questi prodotti. Dice poi la nostra federazione fa molto. On fait beaucoup de choses. Il y a des femmes aussi qui sont au nord. Qui font que l'élevage, l'artisanat aussi. Donc chaque. Ci sono anche delle donne che fanno allevamento nel nord. Parce que chez nous, on fait beaucoup d'oignons. E dunque l'intervenzione della federazione anche dipende della della zona in cui interviene. On fait les confitures avec la mangue, la papaya. Fanno le marmellate. On fait la confiture de papaye aussi. Donc ceux qui sont vers Sigasso, ils produisent beaucoup de mangue, ils font des mangues séchées. E dunque, vabbè, questo era un po' per sentire la sua voce, perché poi comunque spiega come è organizzato, sono organizzate la struttura di base, il paese, il villaggio, e poi c'è il gruppamento, il gruppo di villaggio, e poi c'è il gruppo dei gruppi di villaggi. E poi c'è una cosa che potrebbe essere come per noi un dipartimento e una regione e poi a livello nazionale. Spiega che comunque questa organizzazione gli permette di avere delle referenti in ogni villaggio e di cooptare alle donne di venire e di capire come metterci con le altre per sia... imparare da leggere, da contare, questa cosa lo spiega anche che secondo il paese e la zona dove sono fanno alfabetizzazione o sia in Pearl non ricordo l'altra lingua importante nel Mali, ma comunque di trovare una modalità di utilizzare al meglio le terre. Racconta dunque, poi cioè in questa intervista racconta che la difficoltà in questo momento potrebbe essere di trovare le modalità di esportare, che c'hanno un problema di per esempio di trovare le scatole per mettere le plastiche o le cose per mettere il cibo dentro e in modo di poter portarlo un po' più al di là della zona. E anche un problema che sulla conservazione. Io l'ho trovato interessante perché comunque è una associazione apolitica, indipendente, laica, che viene proprio dalla volontà e dalla solidarietà delle donne, così lo spiegano nella loro presentazione. Vogliono aumentare la produzione agricola, vogliono trovare una sicurezza alimentare, ridurre la povertà, vogliono formare e informare la maggiorità delle donne nella ruralità, a sviluppare delle filiere di produzione, di aumentare i punti di acqua e proteggere l'ambito. Stanno in tutte le zone del Mali. Ecco che posso dire su questa cosa là. Sentendo loro, sentendo lei, mi chiedevo ma come si continuano un lavoro così, come sono toccate dalle eventi, come sono toccate queste donne, come è toccata la popolazione diretta, come sono le terre, come possono continuare in questo momento, soprattutto nel nord. Questo era la piccola parentesi sul Mali. E che scegliamo tra queste tutte queste cantante? Rocchia Traore? Sì. Thank you. Ecco Rocchia Traore. E, per concludere questa trasmissione, una scoperta, forse non una scoperta per voi, è una cantante belga, del Belgio, che si chiama Selassou. E come all'inizio non doveva essere un'artista, sono cresciuta in realtà in una piccola città nel Belgio e nessuna nella mia famiglia faceva musica. E invece io, lei c'ha 21 anni e dunque, solo per farla sentire e perché veramente mi è piaciuto, vi faccio un pezzo, l'inizio del suo concerto, e poi si vedrà anche un'altra canzone. Aspettate, ci sono quasi. Eccola, Selassou. Allora, mi sono un po' sbagliata su il momento del concerto che volevo fare ascoltare, questo è la fine, invece volevo farvi sentire come comunque c'ha diverse possibilità e fa diverse cose. Defending them, I just know that I can change. But after all this time, I still don't know it. It doesn't be what I hoped for. And so here am I, my restless soul. Thank you. rest my soul. Yeah, yeah, yeah. E questo dunque l'inizio del concerto di Selassie a Parigi lo scorso novembre. E così si inizia un po' tranquillamente e poi comunque lei ha iniziato così un po' nei bar e poi i suoi amici l'hanno messo su social network, sulle Twitter e poi è stata incoraggiata finché a fare la prima parte di un concerto di Prince, finché a essere contattata dalla casa di produzione di Necca, finché a fare un pezzo del suo album con Michel Geocello, finché a dire di lei che lei non appartiene a nessuno, a nessun genere musicale, se la su appartiene a una nuova generazione per la quale la musica non ha frontiere, confine. E infatti quando si va avanti nel concerto si arriva a una, cioè cresce proprio l'ambiente e cresce anche questa sensazione del senza confine. Silly child, you just lost. E quindi con Se Lassù che vi consiglio di guardare, di seguire questa giovane bianca, anche se talvolta la sua voce comunque ricorda le voci delle grandi afroamericane, vi consiglio di vederla, di seguirla e di sentirla. Per con lei si finisce la Megaphonics di oggi e io vi dico fra due settimane. ظلم کا زمانہ بیتے گا رے بیتے گا 你有没得实力还要去来当歌星以为会捞几个眼子就在哪里做 我有一个不فاهم طبي دي بون سور لا تاب اسمعوني جيبوا شباب وما قلت البنات نطلع الجبل الهوا ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف Violencia engendra violencia, si la tienen en su mesa cada día nunca van a alcanzar sabiduría. Se alimentan su cuerpo y sus neuronas. Megaphonics, Megaphonics, Megaphonics, la música vista del cielo. Trasmissione musicale e geopolitica. Ay, es verde, yo chino, en carro, blit, visti, mala. Tanto que me ne ucate, ni fuese coyo, tala. Pour le même combat.